sta dietro. Corri di più, non ce la fai. Corri di più, non mi stai dietro. Corri di più, non ce la fai. Cala la notte in questa città, senza vita, senza vita. Cala la notte in questa città, senza vita, senza vita. Cala la notte in questa città, senza vita, senza vita. Cala la notte in questa città, non c'è pietà. Vola fino a tu e non cadere.